dal 14 al 19 marzo, transizione di fase da Cosenza, seguirà Fiera Immensa, undicesima edizione. Socialità e solidarietà altra nell'area delle ex officine delle Ferrovie della Calabria. Maggiori informazioni su transizionedifase.org oppure su fieraimmensa.noblogs.org. Transizione di fase, una radio immensa.